Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, lasciatemi iniziare con un riferimento personale. Prendo i mezzi pubblici praticamente tutti i giorni da 25 anni. Io sono abbastanza fortunato perché viaggio su una linea ferroviaria che funziona piuttosto bene, anche se per la verità solo da pochi anni. Ma per moltissimi italiani le cose purtroppo vanno diversamente. Che si tratti di pendolari o viaggiatori occasionali, gli interrogativi sono sempre quelli lì. Il bus passerà all'ora giusta o mi toccherà aspettare 20 minuti al freddo? Ce la farò ad arrivare in tempo all'appuntamento? Riuscirò a prendere la coincidenza? Insomma, tra gli aspetti più critici per quanto riguarda i mezzi pubblici, per molti cittadini c'è il fattore affidabilità, la certezza cioè di arrivare a destinazione in tempi perlomeno ragionevoli, anche se insomma qualcosina va storto. Ebbene, Torino, città che sta lavorando moltissimo sul tema delle smart city, sta tentando di affrontare proprio questo problema. Ce ne parla Federico Pedrocchi. Ciao Federico. Ciao Maurizio. Che si trova a Torino con chi, Federico? Sono qui con Rossella Pareo. Buonasera Pareo. Buonasera a tutti. Che dirige il team della società 5T, società a partecipazione pubblica di Torino, che si occupa di tutte le tecnologie più moderne che riescono a rendere più efficiente il trasporto pubblico. E di questo stiamo parlando, e il problema centrale, Maurizio, lo sappiamo, è che il trasporto pubblico riesca a presentarsi a coloro che vanno in macchina come qualcosa di realmente alternativo. Pareo, so che avete fatto una ricerca, effettivamente dalle vostre analisi viene fuori che ci sono parecchie situazioni ogni giorno che creano problemi. Allora, certamente sì, questo è vero ed è naturale, perché solo una piccola parte dei mezzi del trasporto pubblico viaggia su corsia preferenziale, su una sede protetta. Tutto il resto dei mezzi del servizio di trasporto pubblico viaggiano insieme agli altri veicoli sulle strade dove succedono degli ingorghi, degli intasamenti e dove si creano delle problematiche che vanno a perturbare la regolarità cosiddetta dei passaggi alle fermate e del servizio. Per questa ragione nella città di Torino, ma non solo, qui insomma molto è stato fatto, ma anche molto in tante altre città italiane, è stato installato un sistema che consente, tramite la localizzazione in tempo reale di tutti i veicoli della flotta, un cosiddetto sistema AVM in gergo tecnico, di sapere esattamente in ogni istante dove si trovano tutti i mezzi e quindi di poter dare ai cittadini le informazioni vere di arrivo alle fermate, che tengono conto di tutte le perturbazioni che il traffico provoca sul servizio di trasporto pubblico locale. Senta, mi faccio fare subito una domanda. Quindi quei cartelloni che siamo già un po' abituati a vedere in varie città, che alle fermate dei tram, per esempio, dicono arriva tra 2 o 3 minuti, non indicano dei tempi veri? Indicano dei tempi veri in tutti quei casi in cui c'è dietro un sistema di monitoraggio e di localizzazione in tempo reale della flotta e la capacità di calcolare delle previsioni di arrivo alle fermate che tengano conto di dove si trova effettivamente il mezzo. Invece in generale molto più spesso sono, diciamo, delle stime che vengono fatte sulla base di insomma esperienze precedenti. Sono le stime del cosiddetto programma di servizio, che è quello teorico, non è detto che sia sempre quello reale, che i due coincidano. Quindi abbiamo questo primo elemento per cui voi dite siamo in grado di dare ai cittadini delle informazioni esatte sui tempi, per esempio, di arrivo dei mezzi pubblici. Sì. Come le ricevono queste informazioni i cittadini? Le possono ricevere in molti modi, sicuramente attraverso dei display, dei pannelli informativi installati a Torino su moltissime delle 3.000 fermate, su alcune centinaia di fermate, ma più agevolmente e più facilmente in tutte le fermate attraverso i loro dispositivi portatili, telefoni, cellulari, smartphone, eccetera, sia via SMS, sia attraverso delle nuove applicazioni che tra l'altro non sono ancora state lanciate ufficialmente, ma che il gruppo torinese Trasporti a breve pubblicherà, proprio per avere queste informazioni a tutte le fermate col telefono che ciascuno di noi utilizza. Il problema è anche riuscire, quando ci sono questi grandi intoppi, a mettere in moto una risposta in termini di trasporti, cioè classico, il tram che si ferma, dietro se ne possono fermare altri 10, riuscire ad avere la possibilità di dare un'altra alternativa. State anche pensando al fatto che ci potrebbe essere una flotta di emergenza? Beh, questo non tocca né a me né a 5T pensarlo, perché noi siamo solo la società di tecnologia del gruppo. Questo è un problema vero e proprio di esercizio del servizio, quindi dovrebbe, mi scusi, rivolgere questa domanda al gruppo Torinese Trasporti. Però potete suggerire delle strategie che i mezzi pubblici già esistenti possono adottare per ridurre al minimo il danno. Non so, c'è una manifestazione in centro a Roma che blocca tutto, gli si potrà dire aggiratela, no? Qualcosa del genere. Quello che lei sta dicendo corrisponde a fare delle deviazioni in tempo reale al servizio, cosa che già avviene, diciamo che si fa in casi molto gravi, casi di incidente e così via. In questi casi proprio l'informazione viene di nuovo ulteriormente utilizzata dai cittadini, che si troverebbero altrimenti addirittura ad attendere a una fermata dove il mezzo non passerà più. Mai. E ancora maggior ragione in questo caso l'informazione in tempo reale è fondamentale. Quindi l'informazione, per esempio, di scegliere un percorso alternativo per il percorso su un'altra linea, no? Magari uno è già alla fermata, la linea che aspettava non arriva perché è stata deviata, vede se è una, se si trova in attesa in una fermata in cui c'è un display che visualizza le informazioni, può vedere l'informazione sulla linea che è stata deviata e quindi capire che può salire su un'altra linea, o meglio ancora consultare il sito web, anche quello di 5T oltre che quello di GTT naturalmente, e vedere facendo un calcolo di percorso con le informazioni in tempo reale quale percorso è più conveniente e quindi anche quali linee prendere in quella reale situazione di quel momento, utilizzando peraltro anche il dispositivo mobile, quindi anche trovandosi alla fermata è un'operazione che può fare tranquillamente. Grazie dottoressa Pareo. Grazie a voi, a presto, arrivederci. Ciao Federico, a presto. Ciao Maurizio, ciao. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.